Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Mi piacciono i libri che parlano di amicizia, sia al femminile che al maschile, perché trovo che sia un tema molto interessante da indagare da parte appunto dei narratori. E parla di amicizia questo romanzo bello di Federica Bosco che si intitola Ci vediamo un giorno di questi, pubblicato da Garzanti. Possiamo dire che sì, è proprio l'amicizia al centro di questo romanzo, un'amicizia in questo caso al femminile che seguiamo fin dall'adolescenza e fino all'età adulta, diciamo, iniziamo dall'adolescenza fino all'età adulta. E l'amicizia fra Ludovica, detta Ludo, che è poi la voce narrante del romanzo, e Caterina, detta Kate. Proprio nell'incipit del romanzo Federica Bosco scrive: «È difficile pensare che al mondo ci fossero due persone più diverse di me e Kate». Federica, tu hai voluto raccontare questa storia di amicizia partendo da due caratteri molto, molto diversi. Che tipo di relazione c'è fra Kate e Ludo? Allora sì, volevo raccontare una storia di amicizia femminile, intensa, vera, molto di quelle amicizie che sopravvivono a tutti gli urti della vita, a tutti gli oceani in tempesta, sai? Noi donne siamo spesso additate, non siamo in grado di fare squadra, non siamo brave, non siamo delle buone amiche perché tendiamo sempre a cercare di mettere zizzania. Credo che una piccola parte di verità ci sia nella misura in cui non siamo molto brave nei grandi numeri, siamo a molto brave rete. Uno a uno, siamo devote nei confronti dei nostri compagni, dei nostri figli, dei nostri amici. Nella squadra perdiamo tanta energia, ci confondiamo, forse per quello che poi ci dicono tante cose. In realtà quando sceglie una persona, come in questo caso qui, che queste due ragazze che poi nel libro hanno circa 40 anni, ma si sono conosciute, che ne avranno avuto un po' di scuola, 6-7, ti scegli perché senti un'affinità e non te la sapresti spiegare. Quella diventa la tua migliore amica. E è successo un po' a tutti noi così, di scegliere, non so, la compagna di banco, piuttosto che nel cortile stai giocando e senti che quella persona, quella bimba, quel bambino è la tua persona. È la tua giusto persona. Giusto per citare Grey's Anatomy. Senti, partiamo sempre alti, no? Partiamo sempre altissime. Ma le amicizie, secondo te, che nascono appunto per queste affinità che non si sanno spiegare, poi riescono appunto a sopravvivere agli anni e alle differenze magari di vita, di stile di vita, di interessi che ognuno poi prende nel corso della vita, appunto? Credo che la bellezza di scegliersi così presto, quindi quando ancora non si è nulla, sia un vantaggio, proprio perché ti piace a prescindere. Poi arrivano i difetti, poi arrivano quei cambiamenti, no, arriva l'adolescenza e tu vuoi spezzare dalla tua famiglia, tu vuoi la tua identità e ovviamente diventi ribelle, mi metto a fumare, mi tingo i capelli, ma sotto sotto rimani sempre quell'insicuro, quello che ha paura del giudizio, quello che eccetera eccetera. Ecco, la migliore amica questa cosa la sa, per cui ti lascia mettere queste maschere, ti lascia atteggiarti perché sa che tu sei altro. Il vantaggio è questo quando si è molto giovani, perché anche quando ci si ritrova a 40 anni si riesce a vederci con quegli occhi lì, come dire, non me la racconti a me, no? Cioè, non puoi imbrogliarmi, insomma, io ti conosco intimamente. Esatto. Ecco, dicevamo che Kate e Ludo hanno dei caratteri molto diversi. In questo rapporto profondo di amicizia, in questa coppia, sicuramente Kate è il leader e Ludo è un po' la gregaria, mettiamola così, perché lei lo dichiara apertamente, dichiara le sue sicurezze, il fatto che comunque va un po' a rimorchio spesso di Kate. Ecco, questo tipo di meccanismo poi nella storia di Ludo e Kate rimane, senza svelare troppo, nell'ambito della storia, o magari ogni tanto c'è qualche rovesciamento? Allora, se credo fortemente che la vita ti porti, quello che fa Ludo infatti è quello di cercare di tenere il suo territorio sempre molto protetto, sempre molto controllato. Lei definisce la sua vita come un trolley della Ryanair, quindi ci sta. Bellissima definizione, perché la vita di Ludo è un trolley della Ryanair? Perché ci sono quelle quattro cose, quattro, la valigia si chiude, la metti in cabina e non hai problemi mai, quindi non ci aggiungo una relazione vera e stabile a un compagno che non si può neanche definire tale, ma che non è un collega. È un collega con cui si incontra, diciamo. Diciamo, fisicamente sera. Il mercoledì e la domenica ogni tanto. E la domenica ogni tanto, se non ci sono le partite, non ha ovviamente figli, non pensa di averne, ha un lavoro in banca che insomma non è che la entusiasmi, ma è quello che si è poi ritrovata a fare. Per cui da una parte, no, tu tendi a mettere tutti i sacchi di sale così non arrivano le tempeste, poi la vita un bel mattino dice ah fammi vedere un po', aspetta, arriva giù uno tsunami ed è poi quello che succede. Più sei pronto e rigido e più ti spezzi. Paradossalmente, se ti aspetti un po' tutto, se riesci a rimanere un pochino elastico, queste sono teorie un po' orientali, sì, per noi, diciamo la verità. Che è quello che però hai incarnato in questi due personaggi, sì. Perché Kate è sicuramente una più aperta, diciamo, anche alle follie, agli imprevisti della alla vita. Non ne ha paura, non la teme, si diverte molto in questo grande acquario. L'altra invece è sempre ad aver paura dei pesci che ci sono. E delle cose accadono, noi possiamo raccontarne solo alcune. Per esempio, a un certo punto, questo famoso Paolo, questo personaggio... lo so che lo odi. Io lo detesto, questo va... Ma no, ma perché fa parte dei cosiddetti amici con benefici, come tu li definisci a un certo punto, nel senso appunto che la relazione in realtà con Ludo è veramente un po' triste, appunto si incontrano per far sesso una, forse due volte alla settimana, all'improvviso però lui sembra, gli è partito l'embolo quando ha letto questo romanzo, perché all'improvviso lui vuole sposarla, vuole stare insieme a lei, diventa veramente ossessivo nei suoi confronti, sì. Fino a diventare... veramente un uomo verbalmente violento, psicologicamente violento. È pericoloso. In realtà questo personaggio è già così dall'inizio, ma noi non lo sappiamo. Quest'uomo effettivamente è un uomo ambizioso, ma sotto mentite spoglie. Finché le cose sono tranquille e riesce a controllarle, gli va bene. Quello che succede è che a un certo punto Ludo fa un prestito a Kate perché vuole aprire un centro shiatsu zen, yoga, le dà 20.000 euro, insomma, le dà un sacco di soldi, tutti i suoi risparmi, ma però lei si fida fortemente della sua amica, dice so che in qualche modo me ne restituirà. Quando fa questa cosa lui in quel momento si sente così scavalcato e forse no, sai, i maschi alfa che si sentono messi da parte, mi fa un po' ridere, mi fa molto leone. Sì, perché poi apparentemente sembra innocuo, ma sembra grigio con questo gilettino, non te lo immagini. Invece da quel momento in poi comincia questo lavoro di come questa tela di ragno intorno a lei, che non si era, cioè il nemico c'era già in casa, per cui non te l'aspetti. Quando dai troppo per scontato qualcuno, è lì che lui riesce a fregarti, e questo fa, perché comincia con tutta una serie di parole che minano la sua, intanto sicurezza, la sua autostima, la sua sicurezza e anche la sua salute mentale. Secondo me ha avuto la grande capacità di raccontare anche questo meccanismo uomo-donna con grande leggerezza, che non è mai superficialità. La leggerezza, secondo me, è una caratteristica molto importante e bella da parte di alcuni scrittori. Perché l'hai raccontato appunto come qualcosa che può capitare nella vita, ed è così, cioè tu non te l'aspetti. No, non te l'aspetti, capita molto spesso, perché mi hanno scritto tante donne dicendo io in questa situazione effettivamente mi ci sono trovata e non mi sono accorta di come ci sono caduta. Cioè potenzialmente ci possiamo cadere tutte, perché più uno è manipolatore più è abile. E i manipolatori non vanno mai a cercare donne estremamente sicure di sé. Tu non sei abituata ad essere trattata bene intanto, no? E allora io ti tratto molto bene, ti dico ma sei brava, sei bellissima. Tu cominci vagamente a crederci, perché per tutta la vita nessuno ti ha mai detto che eri brava a fare qualcosa, e al momento che ci credi un po' ti cominci a dire ma chi ti credi essere? Ma ti rendi conto? Ma tu se ti porta in alto e poi ti per distruggerti. E poi ti fa precipitare e ti sfracelli. E lo fa con tanta abilità che tu veramente perdi la tua bussola, finché qualcuno insomma non ti aiuta a uscire. Ecco, poi non entriamo troppo nei dettagli della trama, però diciamo che questo non è l'unico problema che l'amicizia di Kate e Ludo dovrà affrontare. Ci sono anche dei momenti in cui le due litigano, come giusto che sia, perché nella vita è così. C'è un anno in cui non si vedono e poi Kate torna incinta, lo diciamo perché nelle prime pagine, certo. Ha un figlio che poi crescono un po' insieme, cioè questo ragazzino è cresciuto da sua mamma e dalla zia, e praticamente dalla zia è quella che lui considera la zia. Un rapporto molto bello quello che c'è fra Ludo e il figlio di Kate. Sì, proprio perché Kate appunto fa sempre le cose per istinto, e a un certo punto appunto loro litigano per una sciocchezza, come spesso succede quando si è molto giovani, però per l'appunto Kate nel frattempo parte e se ne va in Australia, quindi proprio è impossibile anche poi contattarla. Torna e aspetta questo bambino, felicissima di aspettare questo bambino. Il padre non si sa, lei non ce lo dice, per ora non si sa chi è. Quindi si trovano così a gestire, ma anche molto bene, proprio perché non si sono... Perché trovano i loro ruoli un pochino da sole, no? Quindi Kate ovviamente è quella che ti dà la possibilità di fare tutto, e Luda è quella che sì, però non facciamo proprio tutto. Quella magari che mette due un freno. Regole, vediamo. Ecco, dicevamo che ci sono chiaramente, come succede sempre nella vita, molti ostacoli poi da affrontare, senza appunto entrare nei dettagli. Diciamo che a un certo momento le due amiche dovranno affrontare un problema molto, molto serio, molto grande. Anche qui, secondo me, tu hai saputo narrare una storia vera. Mi sono ritrovata in molte parti di questo romanzo. Io l'ho trovato un romanzo vero, leggero, come dicevo prima, nel senso bello del termine, ma anche pieno di speranza, perché comunque dà sempre l'idea che nella vita gli ostacoli si possono quantomeno affrontare, non tutti superare come vorremmo, ma insomma, e questa è un po' la tua filosofia di vita. È una filosofia a cui aspiro, anche se, come ti dicevo, è molto orientale come modo di pensare. Noi occidentali poi tendiamo sempre invece ad arrabbiarci molto per quello che la vita ci consegna, per questi pacchi che preferiremmo non ricevere. Crescendo, invecchiando, ahimè, ci si guarda molto indietro, comincia anche a vedere un po' già quello che c'è, e quello che verrà lo gestisci cerchi di gestire in un'altra maniera. E proprio leggendo il tuo passato, che cominci a dire: beh, mi è successa quella volta quella cosa lì, magari c'era una lezione, però le lezioni le vedi molto dopo. Magari da quel dolore lì nasce un'amicizia, una relazione, un rapporto, un lavoro, chi lo sa. Da quell'altra cosa, da quella separazione, io sono diventata una versione migliore di me, per esempio, che invece non sarei divenuta se fosse rimasta bloccata là. Ma quando ti succede, tu non vuoi soffrire. L'essere umano non vuole, ma nessuno vuole soffrire. Perché io devo perdere una persona? Perché io devo confrontarmi con un dolore così grande, così esasperante? Cosa può nascere da questa cosa? Ecco, se si riesce, non subito, ma se si riesce dopo un pochino, dopo che il grosso del dolore è passato, a vedere cosa ha portato di beneficio, quella può essere una rilettura che ci può fare crescere, avanzare, e ci può fare del bene. Grazie a Federica Bosco, ora in libreria con Ci vediamo un giorno di questi. Il sottotitolo, insomma, spiega già molto di questo romanzo: Quando l'amicizia è infinita come il mare, pubblicato da Garzanti. Un romanzo, come vi dicevo, molto schietto, sincero, vero, secondo me, narrato con leggerezza, anche se, già ve lo anticipo, ci sono delle parti che vi faranno commuovere, non ci sono alternative, insomma, e questo è il bello della narrativa. Grazie Federica. Grazie Alessandra, grazie a tutti voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Una notte, proprio adesso che sono vecchio, malato, totalmente a secco di sperma e abbastanza pieno di problemi, li risento quei rumori. Non c'è dubbio, nella camera accanto alla mia stanno facendo l'amore. Questo è l'incipit di 1-0, il nuovo romanzo di Hanif Qureshi, pubblicato in Italia da Bompiani con la traduzione di Davide Tortorella. Hanif Qureshi è uno scrittore anglo-pakistano, madre inglese, padre pakistano, che ha scritto romanzi come Il Buddha delle periferie. Questa volta ci propone un romanzo che lui stesso ha definito un thriller erotico allo humor nero. Racconta la storia di un uomo, Valdo, famoso regista, ormai arrivato a 80 anni. Non si rassegna però agli acciacchi e alle limitazioni imposte al suo corpo dalla vecchiaia, tra l'altro è costretto anche sulla sedia a rotelle. Lui ha una moglie molto più giovane. Inizia a sospettare che la moglie abbia una relazione con Eddie, un giornalista cinematografico che passa molto tempo in casa loro con la scusa di rendersi utile. Valdo ascolta i rumori che arrivano dalle altre stanze, si trasforma lentamente in detective, iniziando a raccogliere indizi, prove sul tradimento e naturalmente pensando a una vendetta. Questo è un romanzo sul concetto del desiderio e l'impossibilità di realizzarlo. Sentiamo da Hanif Qureshi come è nata l'idea di questa trama. I was in Calgary, in Sardinia. Ero a Cagliari, in Sardegna. Ero sdraiato sulla spiaggia e avevo letto molti romanzi di Simenon e mi erano piaciute le sue storie del commissario Maigret e i suoi romanzi più cupi. Avevo anche visto molti film noir americani in bianco e nero degli anni 30, 40 e 50 che mi erano sempre piaciuti. Così mi è venuta l'idea di scrivere la mia versione di un noir. Una storia ambientata a Londra con una persona disabile, come nel film di Hitchcock La finestra sul cortile. una moglie più giovane e l'amico emarginato criminale che va a vivere da loro. Volevo ovviamente che fosse moderna. E quindi è pensata anche come la storia di come un uomo anziano veda Londra oggigiorno. Una Londra che cambia, una Londra per i super ricchi. Ma l'ingrediente principale, come ogni romanzo, ogni storia, ogni programma televisivo, ha a che fare con la voce del protagonista. E ho sentito parlare questa voce dentro di me, la voce di Valdo, la voce dell'eroe della storia, potremmo dire. E questa voce mi ha entusiasmato molto. Non vedevo l'ora di scrivere in questa voce. The hero of the story, and his voice amused me very much, and I was looking forward to writing in this voice. Valdo è un personaggio molto interessante dal punto di vista proprio letterario. È un uomo a oltre 80 anni, costretto in una sedia a rotelle, è un regista famoso e ha un rapporto particolare anche con il senso del desiderio. Questo è un romanzo che parla molto di desiderio, non solo sessuale, ma il desiderio a 360 gradi. Come l'ha voluto descrivere questo Valdo? I guess I would say that what distinguishes Waldo is his... It's his desire, his liveliness, his eros. Direi che quello che distingue Valdo è il suo desiderio, la sua vivacità. È molto intraprendente, persino alla sua età. È pieno di cupidigia. Certamente tutti noi pensiamo sempre a come non essere depressi, a come mantenere vivo il nostro desiderio, così in particolare quando si invecchia, quando il tuo desiderio inizia a svanire. È stato molto divertente per me scrivere di un personaggio pieno di eccitazione e desiderio, nonostante sia un uomo anziano. E mi ha riempito di ottimismo l'idea di scrivere di questo personaggio. Valdo distingue appunto fra libido e il fatto che lui non fa sesso. Chiaramente sono due cose diverse. La moglie inizia ad avere, diciamo, una relazione sessuale con, diciamo, una persona che frequenta questa casa. Lei a un certo punto scrive: le voci non smettono, resto in ascolto, orripilato ed eccitato. Perché Valdo ascolta loro due che fanno sesso. Perché inizia ad ascoltarli dall'altra parte, diciamo, della parete? Cosa lo spinge? La gelosia, la curiosità, la voglia di provare ancora cose che non riesce più a provare? Yes, it's a very good question, because as he fades, as he begins to withdraw from the world. Sì, è un'ottima domanda, perché mentre lui svanisce, mentre inizia a ritirarsi dal mondo, ha ancora delle curiosità riguardo alla sua amata moglie, riguardo i piaceri sessuali di altre persone. Mentre perde interesse in se stesso e nei propri piaceri, che a quell'età non sono favolosi, si identifica con i piaceri di chi lo circonda. Quindi è eccitato, geloso, invidioso, furioso e curioso di cosa c'è tra quest'altra coppia e di cosa vogliono gli uni dagli altri. Poi, ovviamente, con lo svilupparsi della storia, inizia a pensare che questa coppia non gli voleva poi così bene. Lui sente e vede questi indizi nell'appartamento intorno a lui e inizia a creare una storia con queste prove. È come un detective o un lettore che inizia pian piano a vedere il quadro completo di cosa sta accadendo attorno a lui. E ogni tanto, da scrittore, mi sento anch'io così. Mi siedo in camera mia con la mia penna e il mio foglio, abbastanza isolato. Tutti gli altri stanno andando al lavoro e sono occupati. E io sono distante e osservo. In questo senso, Valdo è anche, in parte, il ritratto di quello che sono. Everybody else is going to work and they are busying in the world and I am separate, an observer. So Waldo is also partly a picture of how I am, I guess. Inevitabilmente a un certo punto Valdo si pone la questione della differenza fra sesso e amore, cioè deve capire se sua moglie è coinvolta emotivamente o se si tratta solo di una relazione sessuale. E lei fa dire al suo personaggio: vorrei tanto dire che è solo sesso. Dice: non è il sesso a preoccuparmi, ma l'amore. Finalmente ho capito, io sono il classico idiota che vuole essere amato in esclusiva. Lei come la pensa, insomma, la classica differenza sesso-amore ha senso? Cambia questa idea col passare degli anni? I guess when I think about love, it's really to do with the belief that you exist permanently in somebody else's mind. Credo che l'amore abbia a che fare con il credere che tu esisti permanentemente nella mente di qualcun altro, persino quando non sei presente, anzi, ancora di più quando non lo sei. Sapere che ti sta pensando, che dai senso alla vita di una persona, che un'altra persona organizza la sua vita in base a te. Questo è importante come senso di identità e non di desiderio fisico. Chi è amato è desiderato. È sempre presente nella mente di qualcun altro. Un po' come quando da piccolo vai a scuola e sai che la mamma ti pensa e che sei importante per lei. E sai anche che quando tornerai a casa, lei ci sarà. Questo tipo di legami sono profondi ed essenziali per il nostro senso di dignità. A un certo punto Valdo, appunto, che è un famoso regista, dice che immaginare le cose è il suo mestiere e poi aggiunge: l'immaginazione è il posto più pericoloso al mondo. E così perché? I guess I talk about the imagination because I'm a writer and many of my friends work in the cinema and theater and so on. And what they do for a living is a strange thing, which is they make up stories. Credo di parlare dell'immaginazione perché sono uno scrittore. Molti dei miei amici lavorano nel cinema, nel teatro, e quello che fanno nella vita è questa strana cosa che è creare storie, persone, conversazioni. Ovviamente ognuno di noi ha un'immaginazione che potremmo definire immaginazione sociale e che ha a che fare con il modo in cui vivono le persone, le relazioni sociali che intrattengono. L'immaginazione è pericolosa perché minaccia lo status quo, il modo in cui le cose sono. Noi potremmo avere l'idea migliore per un nuovo palazzo, per delle nuove relazioni sociali. Quindi l'immaginazione non lascia che le cose rimangano le stesse. L'immaginazione è quello che serve per rimanere interessati e coinvolti nel mondo. Ma l'immaginazione, diciamo, disturba o distrugge qualcosa. È per questo che l'ho detto. But the imagination always, let's say, disturbs or breaks up something. That's why I said that. E questo era Nif Qureshi che ci ha parlato del romanzo 1-0 pubblicato in Italia da Bompiani. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberta Frisani. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, cliccando nella sezione Programmi, il Cacciatore di Libri. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter o sulla pagina Facebook ufficiale del programma Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.